17. I torrioni sorgevano massicci dal fossato che circondava le mura. L'edificio centrale, chiuso dai turresotti chiari, si stagliava sul cielo plumbeo. Forza ed eleganza si univano. Al confronto il castello di Quebec era poca cosa. Soltanto nei libri illustrati ne aveva visto uno così. Peter si riempiva gli occhi di ogni dettaglio, voleva imprimerlo nella mente per ricostruire quell'edificio maestoso pietra su pietra quando fosse stato lontano da lì, descriverlo da tutte le angolazioni, rimirarlo ogni volta che ne avesse avuto voglia. La Torre di Londra, dove venivano imprigionati i nemici del re, i traditori e i cospiratori. Forse anche Ethan Allen era rinchiuso nelle segrete del castello. Padre, se potessi vedermi, pensò Peter. Prima al cospetto di Sua Maestà, adesso in un luogo uscito dalle favole che mi raccontavi da bambino, la dimora dei sovrani e cavalieri. Pensò anche a sua madre, a quanto sarebbe stata fiera di lui sapendolo lì, sulla carrozza di un aristocratico inglese che lo scortava in visita alla torre. La carrozza percorreva il perimetro della roccaforte e Lord Warwick indicava a Peter i particolari della costruzione. Il conte ostentava confidenza senza essere invadente. Giunti all'altezza dello spiazzo laterale, ammirarono l'ensemble di divise rosse e stendardi. Era stato Peter a esprimere il desiderio di vedere la guardia reale in parata e Warwick lo aveva accontentato volentieri. Era la ricompensa per la straordinaria esibizione al cospetto del re. La perfetta geometria dello schieramento, le movenze in sincrono, non un passo fuori posto. I soldati marciavano come fossero una cosa sola. Erano il richiamo diretto all'ordine che reggeva l'impero. Peter sorrise pensando all'accozzaglia di straccioni che aveva affrontato nelle foreste canadesi. Di fronte a quella meravigliosa compattezza, il Golia americano era un ognomo. Osservò la manovra dal finestrino e pensò che quei soldati dall'uniforme scarlatta non avrebbero lasciato scampo ai ribelli. Bastava che Re Giorgio li spedisse oltreoceano e la rivolta sarebbe finita molto presto. Mentre i reparti rientravano in caserma, il conte fece notare a Peter l'angolo delle decapitazioni. Il cantone del boia lo definì, ridacchiando tra sé, ma si fece subito scuro in volto e aggiunse una considerazione amara sul fatto che a chiunque poteva capitare di poggiare la testa sul ceppo, perfino a re e regine. Toccò legno con gesto plateale e riprese a parlare in tono suadente, elencando i nomi di personaggi famosi che in quel luogo avevano ricevuto i servigi del boia. Peter non ne ricordò alcuno, ma la visione di teste che rotolavano tra i suoi piedi lo fece rabbrividire. La carrozza rallentò fino a fermarsi e i due scesero per passeggiare sul lungo fiume antistante la fortezza. Il vento sbatacchiò il foulard del conte. Warwick lo sistemò sotto il bavero della giacca. Peter pensò che il rigonfiamento sullo sterno lo faceva assomigliare a un galletto impettito. Anche la camminata era quella di un pennuto. Il conte poggiava i piedi con cautela, scrutando il terreno. Si accorse che il ragazzo lo osservava e sorrise, scandendo le sillabe con eleganza. Coprofobia! Domandò perdono al giovane inglese. Disse che escrementi e liquami erano la sua ossessione. Pestare qualcosa di indesiderato l'avrebbe reso prima nervoso, poi triste. Da vicino le mura e i torrioni erano ancora più imponenti. Sui pinnacoli sventolavano vessilli. Un lieve tocco del conte riportò Peter con gli occhi al suolo. Poco distante, dietro un capannello di curiosi e una fila di sbarre, dormiva un grosso animale. Il serraglio reale annoverava svariate bestie. Il leone della torre era la più famosa. Questo disse il conte, mentre apriva un varco per sé e il ragazzo con lievi tocchi del bastone. Non era che un enorme gatto, pensò Peter. Ciuffi spelacchiati mossi dal vento spuntavano sulla testa. La lingua penzolava dalle fauci appena dischiuse. Puzzava in maniera rivoltante. Non fosse stato per il leggero movimento della coda, Peter lo avrebbe creduto morto. Warwick roteò il bastone, tracciando un cerchio nell'aria, in direzione dei genitali dell'animale che ricadevano penduli. Notatevi, prego, il diametro testicolare, disse. Scosse la testa. Che spreco, non trovate? Peter fece notare che non sembrava affatto feroce. Il conte disse che viveva nella torre da tanto tempo e aveva dimenticato l'istinto del predatore. Assunse un tono mesto, rammaricato. Ecco l'emblema d'Inghilterra, il leone che ruggisce negli stemmi e nei vessilli del regno. Come se l'avesse udito, l'animale alzò la testa e mostrò le fauci in uno sbadiglio ferino. La gente balzò indietro con grida spaventate. Anche Peter si ritrasse. Non il conte, che invece si protese verso le sbarre mettendo un verso svogliato, simile al ruggito. Il felino non lo degnò d'attenzione. Il conte rimase a contemplare la bestia appoggiato al bastone da passeggio, il capo piegato sulla spalla. Peter chiese sottovoce cosa stesse osservando. «Un essere annoiato di vivere», rispose Warwick, tetro. Si soffiò il naso con fragore, quindi invitò il ragazzo a seguirlo, lontano da lì, stando bene attento a dove metteva i piedi. Camminarono per un lungo tratto senza scambiare parole, fino a che il conte non controllò l'orologio e con un repentino cambio d'umore disse che avevano un appuntamento. Non riusciva a smettere di guardarla. Era perfetta, più della parata, più del castello, eppure doveva essere uscita da lì, dalla casa delle fate e delle principesse. Doveva esserci una stanza nella torre più alta dove custodivano quell'essere incantato. Era giovane, sorrideva appena, causandogli una leggera stretta alla bocca dello stomaco. Lui la fissava, consapevole della propria maleducazione. Occhi, bocca, riccioli, collo candido, profumo, essenza che Peter non sapeva riconoscere. Non esisteva quell'odore in America. Il conte era allegro, parlava senza fretta e senza pause. Un flusso di parole cullava lo stupore di Peter davanti alla creatura che sedeva con loro in carrozza. «Si fa presto a dire eroe, ragazzo mio. In fondo, che cos'è l'eroismo? I raggi di una buona stella che illuminano la nostra personale virtù». Il conte sniffò tabacco accompagnandolo con un sorso di liquore dalla fiasca. «Eroe ce n'è in ogni guerra e a ogni angolo di strada, fortunati o invisi alla sorte, ricchi e felici o sposati a una bottiglia di gin. Ma un uomo, ah, un uomo! Trovarne ancora uno in questa gomorra di seduzione e ladrocinio, pederastia e decadenza, rosa dai sorci come la carcassa di una vecchia fiera. Di questi tempi l'uomo è raro, bisogna cercarlo con la lanterna, come faceva quel tale Diogene». Peter faticava a seguire il ragionamento, perso com'era negli occhi della giovane. Al conte non importava, ascoltava le proprie parole, rapito da se stesso. «Voi, ragazzo mio, venite da un mondo giovane e forte. In voi scorre sangue rosso vermiglio, non la miscela bluastra che intasa le nostre vene. Io mi onoro, no, no, non mi schermite. Io mi onoro di esservi stato mentore e cicerone in questa marziale giornata. Ah, l'uomo nuovo che ancora non ha afferrato la propria virtù virile. Guerriero, soldato del re, spartiata gagliardo quanto illibato. Quel che ancora manca alla vostra perfezione, concedetemi di aggiungerlo come dono, o se preferite, un ricordo di me stesso medesimo. Un tocco personale che là dove ve n'è per il conte di Warwick, a maggior ragione, ve ne sia per un nobile uomo». Peter non capiva. Vide il conte bussare con il bastone sul tetto della carrozza. Il vetturino fermò i cavalli. «È la mia fermata», annunciò Lord Warwick. Baciò la mano della giovane, le raccomandò il suo ospite, indirizzò a Peter una riverenza e con un solo movimento sinuoso si sporse sul predellino. Prima di scendere, perlustrò al terreno sottostante. Peter non ebbe il tempo di rendersi conto. La carrozza già ripartiva. Si ritrovò solo e muto, nell'abitacolo, in compagnia della ragazza. Sentiva che avrebbe dovuto dire qualcosa, ma aveva la mente vuota e non riusciva a togliere gli occhi dai suoi. Poi la fata gli sfiorò una mano e con delicatezza la portò in grembo.